Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 5 luglio 2015, siccità in Sahel. Ora ci sono i mezzi per evitare la carestia. Non tutti i problemi sono risolti, ma per la prima volta la siccità che è tornata a colpire il Sahel non dovrebbe tradursi in una terribile carestia con migliaia di morti come è avvenuto 3 anni fa. L'emergenza di questo 2015 è stata infatti gestita da un flusso di donazioni più costante che ha permesso al World Food Program di far giungere cibo in zona in modo più tempestivo. Ma sono state soprattutto le azioni intraprese in questi anni per prevenire il problema a dare risultati. Molte comunità locali hanno sviluppato una più efficiente gestione dei terreni, sono stati costruiti pozzi con il lavoro di tutti, si è valorizzato il ruolo delle donne che sono diventate le protagoniste di una efficiente agricoltura di autosostentamento. Fin qui la notizia del 5 luglio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. In Sahel è di nuovo emergenza umanitaria, i governi occidentali tagliano i fondi e molti media tacciono. Servono donazioni urgenti, ma soprattutto, dice Vicky De Marchi del World Food Program, serve superare la logica dell'emergenza. Nel Sahel la situazione rimane molto grave, il Sahel è appunto questa regione dell'Africa occidentale che per la terza volta in pochissimi anni è stata colpita dalla siccità, ci sono milioni di persone che hanno bisogno di assistenza alimentare, ci sono situazioni climatiche estreme, si sta anche tra l'altro avvicinando, notizie di questi giorni, un'invasione di cavallette del deserto che sono come dire una specie di armata micidiale per quei pochi raccolti che ancora ci sono, e noi del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite contiamo di assistere oltre 10 milioni di persone nel Sahel, ci sono movimenti di sfollati e anche di rifugiati soprattutto in Mali e dal Mali nei paesi vicini, perché lì è in corso nel nord del Mali anche un conflitto. Quali sono i limiti nella vostra possibilità, capacità, efficienza di intervento al momento attuale? Prima di tutto il limite è logistico, direi, nel senso che in alcune regioni è molto difficile arrivarci, e poi abbiamo sempre questa lotta continua per i fondi. Noi siamo un'agenzia che vive di contributi volontari fondamentalmente dai governi, l'operazione in Sahel costa quasi 900 milioni di dollari e attualmente all'appello ne mancano 375 milioni. Poi tutti i governi occidentali stanno combattendo con i propri problemi di bilancio, quindi ci sono paesi più virtuosi, altri meno virtuosi, ma tutti comunque hanno una qualche difficoltà ad essere generosi. Io credo che tutto il nostro lavoro debba guardare più alla prevenzione. Ad esempio, sicuramente una delle politiche importanti del World Food Program è quello di puntare sulle donne. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.